Come sappiamo e come accennavi, sono già state di molto inasprite queste misure e peraltro lo stiamo vedendo anche in questi giorni dove in diverse città stanno iniziando ad arrivare le denunce per le manifestazioni, gli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre a sostegno della flottiglia contro il genocidio a Gaza che stanno colpendo attivisti, sindacalisti di base, sindacalisti confederali o anche semplici manifestanti che quel giorno si sono trovati insieme ad altre migliaia di persone nelle relative città a manifestare. Stare o anche andare a bloccare stazioni, strade e così via. Questo ulteriore pacchetto sicurezza fa un passo in là, andando a creare di fatto un sistema di vera e propria limitazione della possibilità di manifestare e dell'espressione del dissenso anche radicale. E diciamolo subito, non è solo il caso di colpire i comportamenti ritenuti violenti, perché una serie di misure sono una serie di misure preventive che dunque intervengono addirittura prima del potenziale svolgimento del reato, sulla base di quali presupposti, e questo è un elemento di discrezionalità ed è quello assolutamente più pericoloso. Andiamo a vedere quali sono questi punti che, come dire, già nella bozza di sintesi che sono circolate, parlano da soli. Estensione del divieto di accesso alle infrastrutture pubbliche, urbane ed extraurbane, anche nei confronti di coloro che risultano denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva per reati di cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza commessi in occasione di manifestazioni. Sempre in questo articolo viene introdotta la possibilità, l'ipotesi di arresto in flagranza differita nei confronti di chi ha commesso il reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche. Sappiamo che già l'arresto in flagranza differita è qualcosa che ha fatto molto discutere per le sue modalità di svolgimento. C'è poi un altro punto che secondo me è anche, come dire, una certa qualche dubbio di praticabilità. Perquisizioni in caso di eccezionale gravità, tutela della sicurezza pubblica, e questo è il titolo del capitolo, introduzione della possibilità di procedere alla perquisizione sul posto, anche in occasione di manifestazioni in luogo pubblico ed anche al fine di accertare l'eventuale possesso di strumenti atti ad offendere, in aggiunta alla perquisizione già prevista dall'attuale legge. Io questo articolo lo leggo come non solo la possibilità, se arriva il camioncino della manifestazione, di andare a perquisirlo per capire se c'è su qualcosa di dubbio, il che è già evidentemente qualcosa che andrebbe a creare delle tensioni, ma anche, non so, la possibilità di perquisire un centro sociale la notte prima di una manifestazione, per fare un esempio. Poi si passa alle forme di prevenzione. Possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia nel corso di specifiche operazioni di prevenzione volte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti per manifestazioni in luogo pubblico di accompagnare nei propri uffici e ivi trattenerle per non oltre 12 ore per gli accertamenti di polizia persone sospettate di costituire un pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Questo credo che sia il passaggio più grave. Di fatto si introduce un fermo di polizia di 12 ore sulla base di un sospetto che qualcuno possa fare qualcosa di pericoloso durante una manifestazione. Si lascia alla discrezionalità di una questura un certo tipo di azione ed è chiaro che questo andrà a colpire i soggetti più in vista, più coinvolti, in qualche modo già noti per il loro attivismo, che peraltro è quello che già sta succedendo, appunto, ancora per richiamare alla raffica di denunce che stanno arrivando per le manifestazioni di settembre-ottobre, dove su migliaia di persone le denunce arrivano a quei 20-30 in qualche modo già noti. E questo è chiaramente qualcosa di intimidatorio ed è un problema. Sempre sulle manifestazioni, guardando invece l'altro lato, c'è un'ulteriore misura che è lo scudo penale per gli agenti. C'è lo scudo penale per gli agenti, definito non iscrizione nel registro di notizie di reato in presenza di cause di giustificazione, la tutela legale per il personale di forze di polizia, e lo si definisce per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le forze di polizia. In questo caso non si viene iscritti nel registro degli indagati e c'è un'estensione dell'applicabilità degli istituti per la tutela legale del personale di forze di polizia, ma ci sono ancora due punti che riguardano le manifestazioni che sono piuttosto pericolosi. Insomma, uno appunto il divieto di partecipare a riunioni ed assembramenti in luogo pubblico. disposto dal giudice con immediata esecutività, con la sentenza anche non definitiva di condanna per taluni reati, anche qui sulla base di una condanna non definitiva, di fatto è un daspo alla partecipazione a delle manifestazioni. E poi l'altro punto, che apparentemente sembrerebbe anche un punto ragionevole, che è la depenalizzazione delle sanzioni previste per il mancato preavviso di riunione in luogo pubblico o per inosservanza del divieto di svolgere una riunione o delle prescrizioni di tempo e luogo dettate dal questore, cioè sulle manifestazioni per cui non è stato dato il preavviso o per quelle in cui è stato espresso un divieto dal questore, diciamo quelle non autorizzate per generalizzare. Questo, che fin qui era sottoposto a una denuncia penale, a sanzioni penali, viene di fatto depenalizzato con tutta una serie di sanzioni che arrivano fino a 20.000 euro. Gli avvocati che si occupano di questo tipo di manifestazioni sottolineavano come tutto sommato questo è un elemento abbastanza pericoloso, perché rischia di togliere quella che paradossalmente era una tutela, quella di potersi difendere nell'ambito di un processo, spostando tutto sul piano amministrativo, che è più difficilmente impugnabile, e a livello di sanzioni, spesso, soprattutto se sono soggetti che possibilità economiche non ce l'hanno, colpisce piuttosto duro. E infatti lo stesso articolo non viene definito in un'ottica garantista, ma, leggo testualmente, in un'ottica di accelerazione del processo sanzionatorio e di inasprimento delle sanzioni pecuniarie irrogabili. Come dire, di fronte a processi legali dove spesso, in realtà quasi sempre, le manifestazioni non autorizzate finivano con un proscioglimento o con una assoluzione, si punta invece sul piano amministrativo, più difficilmente impugnabile e che va invece a colpire direttamente questo piano, anche qui in questo caso evidentemente quelli che sono ritenuti gli organizzatori o presunti tali di una manifestazione o di un corteo.